Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La procura di Trani indaga su Deutsche Bank per la vendita di titoli di Stato italiani, 7 miliardi nei primi sei mesi del 2011. Dall'Associazione Nazionale Magistrati censura Morosini, componente del CSM che avrebbe attaccato Renzi, inopportuno e ingiustificato. Elezioni in Gran Bretagna, sconfitta dei laburisti in Scozia, mentre i primi dati da Londra danno avanti il laburista Sadiq Khan. 40 anni dal terremoto del Friuli, che resta ancora un esempio di ricostruzione, è stata chiusa nel 2006 per il Belice, stanziamenti fino al 2028 invece. Un anno di discriminazioni in un condominio per una coppia gay a Torino, il vicino ora ha processo per stalking. Parte il Giro d'Italia, parte dall'Olanda e già con la prima polemica, è quella sullo spot della Rai che sembra un attacco al motociclismo. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, e poi c'è il nostro canale Telegram per avere qualche anticipazione sulla trasmissione, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque la procura di Trani che ha aperto un'inchiesta su Deutsche Bank, ci colleghiamo con Fabrizia Aralla, buongiorno Fabrizia. Buongiorno, sì, l'accusa della procura di Trani nei confronti dell'ex management di Deutsche Bank è di manipolazione del mercato. Al centro dell'indagine coordinata dal PM Michele Ruggero è finita la vendita di titoli di Stato italiani per 7 miliardi di euro, avvenuta nel primo semestre del 2011. In particolare, come sostiene la procura pugliese, il gruppo tedesco in tre pubblicazioni tra febbraio e marzo 2011 definì sostenibile il debito sovrano dell'Italia, ma nascose al tempo stesso ai mercati finanziari e al Ministero dell'Economia italiano reali intenzioni che erano quelle di ridurre entro giugno 2011 il possesso di titoli italiani in portafoglio, che a fine 2010 ammontava a circa 8 miliardi di euro. In quel momento, ricordiamo, era l'inizio della spirale sul debito sovrano che portò l'Italia sull'orlo del baratro e che segnò poi la fine del governo Berlusconi. E alla vendita avvenuta over the counter dei titoli italiani, il gruppo tedesco affiancò nello stesso periodo l'acquisto di circa 1,5 miliardi di crediti default swap di copertura sull'esposizione a rischio Italia. Manovre che, sempre secondo il ragionamento accusatorio della procura di Trani, avrebbero alterato il prezzo di mercato dei titoli di Stato italiani. Sono 5 attualmente gli indagati: l'ex presidente di Deutsche Bank, Josef Ackermann, gli ex co-amministratori delegati, Hans-Humann Jein e Jürgen Fitschen, l'ex capo dell'ufficio rischi Ugo Benziger e l'ex direttore finanziario Stefan Krause. Si registra la nota del gruppo tedesco. Deutsche Bank ha fatto sapere che il gruppo sta collaborando con le autorità in relazione a questa vicenda. Nel 2011, si legge nel comunicato ufficiale, la banca aveva già risposto a una richiesta fatta da Consob in relazione proprio a questa vicenda e ha fatto sapere che aveva fornito in quell'occasione tutte le informazioni e i documenti relativi. È tutto per ora. Grazie Fabrizia Aralla per questo aggiornamento da Bari. La politica e la giustizia, a partire dal caso di Lodi con l'arresto del sindaco, oggi dovrebbe arrivare la decisione sulla scarcerazione. Roberta Pellegatta, buongiorno. Buongiorno, sì, Simone Uggetti, sindaco di Lodi, che si è autosospeso, si trova a San Vittore da martedì scorso, accusato di turbativa d'asta in relazione all'appalto delle piscine scoperte comunali, è in carcere con l'avvocato Cristiano Marini, consigliere di Sport in Lodi, la società su cui era stato cucito il bando, perché è accusato di aver tentato, non è chiaro se ci sia riuscito, di inquinare le prove. L'altro ieri, ma lo si è appreso solo ieri, la procura di Lodi aveva dato parere sfavorevole alla richiesta di scarcerazione e, come dicevi, oggi si attende a riguardo la decisione del GIP, che dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio. Nel caso il giudice per le indagini preliminari desse il consenso, per Uggetti scatterebbero gli arresti domiciliari. Il sindaco ieri in carcere ha potuto incontrare per la prima volta dall'arresto la moglie, alla quale ha parlato di un'esperienza drammatica, ma ha detto: sono determinatissimo ad andare avanti e convinto di ciò che ho fatto. E intanto nella tarda serata di ieri sono circolate voci di dimissioni di Uggetti da sindaco che porterebbero la città di Lodi dritta al commissariamento, subito però smentite dal suo entourage, mentre continuano a chiedere la testa del sindaco lodigiano il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord. Intanto lunedì, sia per Simone Uggetti che per l'avvocato Marini, è previsto l'interrogatorio davanti al PM, e per il momento è tutto. Ti ringrazio, grazie Roberta Pellegatta per questo aggiornamento, ed è su questo evidentemente che si concentra il dibattito politico in queste ore, riguarda anche il CSM, in una giornata nella quale vengono presentate le liste per le elezioni comunali. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, in furia la polemica tra politica e magistratura per le recenti inchieste e anche per le sentenze che hanno coinvolto il PD, ma soprattutto per le dichiarazioni ieri del consigliere del CSM Pier Giorgio Morosini di Magistratura Democratica, la corrente di sinistra, che avrebbe attaccato il governo proprio sulle riforme costituzionali, avrebbe detto Renzi va fermato. Sugli scandali interviene il presidente del PD Matteo Orfini, che spiega: governiamo il paese, il crimine va dove c'è il potere. Invece su Morosini interviene l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Ribadito il diritto del singolo magistrato di esprimere le proprie opinioni, l'associazione ritiene che si tratti di dichiarazioni che, se confermate, risultano per alcuni aspetti inopportune e ingiustificate. Quindi c'è una presa di distanza dell'Associazione Nazionale Magistrati. Questo per quanto riguarda la giustizia. Elisabetta, poi oggi è anche il giorno della presentazione delle liste, no? Proprio così, al via la consegna delle liste dei candidati per le comunali alle 8 è stata fissata la data è il 5 giugno. A Milano l'ex candidata sindaco dei 5 Stelle, Patrizia Bedori, sarà la capolista del movimento. E dopo la vittoria delle comunali, ricordiamo, la Bedori aveva deciso il passo indietro. A Roma si candida anche come sindaco, oltre ai noti, Mario Adinolfi per il Popolo della Famiglia con la lista No Gender, mentre Francesco Storace ha fatto un passo indietro e ha presentato una lista in appoggio di Alfio Marchini. Al momento anche il PD è arrivato alla presentazione delle liste. Non mancano poi le solite curiosità, le sbruffonate, no? C'è chi si chiama Spartaco ed è pronto a guidare come candidato sindaco i romani schiavizzati e presi in giro dai politici, un certo Dario Di Francesco, romano doc, 57 anni, imprenditori. Invece c'è una preoccupazione per quanto riguarda Milano, con la Lega che candida in zona 8 Stefano Pavesi, il giovane che secondo alcuni organi di stampa apparterrebbe a movimenti di estrema destra. Quindi qui c'è un po' di preoccupazione. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento sul fronte politico. Veniamo invece alla politica economica, che in queste ore si occupa essenzialmente di pensioni. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Dibattito sulle pensioni, Simone, che di fatto si incentra da settimane proprio attorno all'ipotesi di una maggiore flessibilità in uscita. Obiettivo: rendere più morbida la legge Fornero per chi è 2-3 anni dalla pensione, favorendo così un ricambio generazionale. Il nodo da superare però è quello delle risorse necessarie per permettere che scatti questo meccanismo, ovvero il costo zero per il sistema previdenziale, sistema che anche questa mattina è stato difeso dal ministro dell'economia Padoan come uno dei più stabili e sostenibili. C'è spazio allora per migliorare il sistema, ha fatto capire Padoan, ma senza intaccarne la sostenibilità. E sempre in questo quadro di attenzione ai conti si può inserire, parole di Padoan, lo spazio per la riduzione dell'età. Fonti del Ministero del Tesoro fanno sapere intanto che il governo starebbe lavorando ad una mini sforbiciata all'IRPEF, stavolta guardando il ceto medio, quello escluso finora sia dagli interventi in favore dei redditi bassi, gli 80 euro, sia da quelli che hanno alleggerito il fisco per le imprese. Si punterebbe ad una limatura di un punto delle attuali aliquote intermedie, al 27 e al 38%, intervento che costerebbe però circa 3 miliardi. E da Roma è tutto, linea allo studio. E adesso ci spostiamo in Vaticano. Può mai essere confusa con l'elemosina. La voce che sentite in diretta è quella del Papa, al quale oggi viene consegnato il premio Carlo Magno. Andrea Viali, buongiorno. Sì, è così, buongiorno Simone, c'è il suo impegno sui temi dell'immigrazione, dell'integrazione e della pace fra i popoli alla base delle motivazioni per le quali stamattina è stato conferito al Papa questo premio, il premio Carlo Magno, che è un'onorificenza, lo ricordiamo, attribuita dalla città tedesca di Aquisgrana alle personalità che si sono contraddistinte per il loro ruolo in favore dei valori europei. Europa e immigrazione sono al centro del discorso che Francesco, l'abbiamo fatto sentire, sta ancora pronunciando in Vaticano davanti ai massimi leader del vecchio continente, ma sentiamo un passaggio delle sue parole. Desidero ribadire la mia intenzione di offrire il prestigioso premio di cui vengo onorato per l'Europa. Non compiamo infatti un gesto celebrativo, cogliamo piuttosto l'occasione per auspicare insieme uno slancio nuovo e coraggioso per questo amato continente. Alla cerimonia, come dicevo, stanno prendendo parte le massime cariche delle istituzioni europee e ci sono anche il premier Renzi e la cancelliera tedesca Merkel che ieri lo ricordiamo, a Roma ha assicurato pieno appoggio all'Italia sulla questione del Brennero, ma ha anche ribadito il no della Germania all'ipotesi di finanziare con gli Eurobond le misure sull'immigrazione proposte dall'Italia nel suo Migration Compact. Per ora è tutto, Simone. E grazie ad Andrea Viali. Per il Migration Compact, appunto, ha detto Merkel, concentriamoci sul bilancio europeo, si parla già di 1 miliardo per il Niger. Dopo la Turchia, il Niger. Sull'esempio dell'accordo stretto fra Bruxelles e Ankara, potrebbe essere stretta un'intesa anche con il paese africano, snodo nevralgico per i flussi che salgono dall'Africa alla Libia, poi in Italia. Servirà 1 miliardo per combattere le cause di fuga dal Niger, ha detto Angela Merkel nella conferenza stampa congiunta con il premier Matteo Renzi. E d'altra parte, secondo l'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni, dal Niger sono pronti a partire per l'Europa 160.000 migranti quest'anno. Dal paese africano parla a Radio 24 il capo missione OIM, l'italiano Giuseppe Loprete. Noi calcoliamo dai 3.000 ai 5.000 migranti a settimana, partono da Gadez per andare verso la Libia. Tutti arrivano in Europa ovviamente. Le altre rotte, gli altri corridoi sono praticamente chiusi o molto limitati. Prima di affrontare il Mediterraneo, questi migranti affrontano il deserto. Quasi tutti ci raccontano di compagni di viaggio che sono morti, persone che sono state abusate in tutti i modi, cadono dai veicoli e nessuno si ferma, vengono abbandonati e muoiono nel deserto. Uno di questi migranti, l'ho visto ieri mentre lo stavamo preparando, ha detto: noi non attraversiamo il deserto, attraversiamo un cimitero. L'intesa con Bruxelles sembra ormai prossima. Il ministro degli esteri nigerino Ibrahim Yakobu si è detto disponibile martedì scorso e potrebbe essere un affare per l'Unione Europea. 1 miliardo di euro sono sempre 5 miliardi in meno di quanti stiamo per dare alla Turchia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo in Gran Bretagna, dove ci sono state le elezioni locali nella giornata di ieri. Ovviamente l'appuntamento più importante è evidentemente quello di Londra, ma i risultati ci saranno nel pomeriggio. Eppure Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, buongiorno. Sembra che Sadiq Khan sia già in vantaggio, no? Sì, assolutamente, è già in vantaggio, è il candidato favorito, a 12 punti di vantaggio appunto rispetto a Zach Goldsmith, che è rappresentante conservatore, questo nei sondaggi prima del voto, ma già dal primo scrutinio sembra confermarsi che Khan sarà il prossimo sindaco. Sembra, perché l'andamento di queste votazioni, soprattutto dopo le polemiche che c'erano state negli ultimissimi giorni, resta sempre comunque con un margine di incertezza. Londra che, come abbiamo raccontato, Leonardo, quindi si potrebbe trovare con il primo sindaco di religione musulmana. A parte questo elemento, in generale come è andato questo voto? No, ecco, l'altro voto molto importante era quello per l'assemblea scozzese, lo Scottish National Party. Si conferma per la terza volta il partito egemone oltre il Vallo, nel Parlamento di Edimburgo non avrà la maggioranza assoluta, ma per un'incollatura, quindi basterà avere un partner minore per poter governare. Questo è un voto importante soprattutto per il partito laburista, che invece ha perso molto in Scozia, non è più il secondo partito, era una sua roccaforte storica, e adesso il secondo partito è quello conservatore. Questa è un'indicazione preoccupante per Jeremy Corbyn, il leader laburista, anche se nel resto del paese il partito ha tenuto meglio di quello che si potesse immaginare. Dico un'indicazione importante perché se da queste votazioni alla fine dovesse uscire un ridimensionamento importante per il Labour, è possibile che la leadership di Corbyn, esponente diciamo radicale del partito che fu di Blair, possa essere messa sotto lo scrutinio da parte, come dire, della leadership del partito. Certo, Londra, se Sadiq Khan vincerà come sembra, lo potrà aiutare molto. Ti ringrazio. Grazie a Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, per questa analisi. Passiamo allo sport. Sport che è soprattutto il Giro d'Italia, che parte oggi dall'Olanda. Ma prima di andare in Olanda, per collegarci con qualche anticipazione con Piero Augusto Staggi, sentiamo questo spot che sta generando molte polemiche, ed è lo spot della Rai. Vicino a loro, alla partenza, non vedrete mai bellissime donne con un ombrello, perché a loro il sole piace prenderlo in faccia. Quando piove le gare non vengono mai interrotte, perché il loro sudore bagna molto più della pioggia. Nessuno li segue seduto da una tribuna, perché i tifosi corrono insieme a loro. Non indossano tute integrali per proteggersi, perché per loro le ferite sono medaglie. Sono i grandi eroi del ciclismo, il vero sport su due ruote. Insomma, avete capito qual è il riferimento, il vero sport su due ruote, un attacco abbastanza diretto al motociclismo che sta generando un po' di rabbia e di fastidio nei fans della MotoGP. Ma andiamo a vedere che cosa succede oggi. Piero Augusto Stagi, in diretta dall'Olanda, buongiorno. Sì, buongiorno. Tutto è pronto per il via dell'edizione numero 99. Del Giro d'Italia. L'Olanda è in festa tutta rosa in onore della nostra corsa. Il via sotto gli occhi attenti e appassionati del re Guglielmo Alessandro d'Olanda. Il via alle 13.45 col nostro Fabio Sabatini, che sarà il primo a partire dai blocchi di partenza per questa crono di poco più di 8 chilometri. Grandi favoriti per la vittoria di tappa: Fabian Cancellara, lo svizzero lucano febbricitante e il beniamino di casa Tom Dumoulin. Vincenzo Nibali, grande favorito invece al successo finale, scatterà alle 16.56. Tutti contro Nibali, Nibali contro tutti, da oggi al 29 maggio a Torino, per 3 settimane a tinte rosa e qualche giallo. È tutto da Perdon, la linea allo studio. E grazie Piero Augusto Stagi, che ritroveremo in tutti i convocati ovviamente dopo le 14, dove si tratteranno come sempre anche tutti gli altri temi sportivi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi nella seconda parte della trasmissione andremo un po' in giro per l'Italia come facciamo sempre. Andremo innanzitutto a Bologna, dove è successo che una ragazza di religione islamica, che ha deciso di non togliersi il velo, di non togliersi il chador, ha ricevuto una sentenza a lei favorevole. È illegittimo, deve ricevere un risarcimento perché non è stata accettata come hostess in un evento. E poi parleremo del terremoto in Friuli. Ricorrono 40 anni oggi, come già vi dicevamo nei titoli, la ricostruzione si è conclusa 10 anni fa ed è un modello per tutti, dove per il Belice sono previsti stanziamenti fino al 2028. Traffico, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della procura di Trani, che indaga su Deutsche Bank per la vendita di titoli di Stato italiani nei primi 6 mesi del 2011. Abbiamo parlato del nuovo scontro tra politica e giustizia, con la NM che interviene con una sorta di censura sul consigliere del CSM Morosini. Abbiamo parlato delle elezioni in Gran Bretagna, abbiamo parlato del Giro d'Italia. Adesso ci occupiamo di una vicenda che riguarda una giovane ragazza di religione musulmana, il suo nome è Sara, che ha ricevuto ragione dalla Corte d'Appello di Milano. Perché? Perché era stata rifiutata per un lavoro di hostess, perché indossava il chador, per adesso la faccio così molto semplice. Ebbene, l'agenzia che la doveva utilizzare è stata condannata a risarcirla. Abbiamo la responsabile e fondatrice dell'agenzia, l'imprenditrice Roberta Casetti. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, che cosa è successo? Praticamente un paio di anni fa, a una selezione per quanto riguarda una posizione posta a una fiera della moda al MICAM, la hostess si è candidata e alla candidatura la mia collega ha richiesto se fosse disponibile a lavorare senza il velo, perché la divisa prevedeva un tagliere, il capello vaporoso è un requisito essenziale legato all'immagine. La hostess ha risposto che non era disponibile e la mia collega molto cortesemente ha risposto che l'avremmo ricontattata e che comunque il nostro cliente non si era dimostrato così flessibile nel candidarla. A questo punto noi tranquillamente, per noi la vicenda era già chiusa, era terminata, e un paio di settimane successive la hostess è apparsa in tutti i telegiornali a livello nazionale richiedendo appunto che le fosse data la possibilità di lavorare con il velo. Senta una cosa, quindi sì? dal vostro punto di vista la questione è questa. Il cliente chiedeva capelli vaporosi, era per Micam, una fiera di moda, quindi si richiede anche un certo tipo di presenza per l'allestimento. Esatto. L'imprenditore richiede o l'impresa richiede un determinato tipo di caratteristiche e quindi evidentemente un capello vaporoso non è compatibile con un velo che copre testa e collo, questo è il esattamente punto. Esattamente, il requisito essenziale era l'immagine, in quanto appunto la hostess e le modelle pubblicizzano determinati marchi e clienti. E in questo caso anche la capigliatura, il trucco, la pettinatura fanno tutte parte dell'immagine che appunto la hostess deve dare dell'azienda, del cliente, del marchio. E la richiesta del cliente è stata legittima perché ogni cliente deve essere libero di decidere quale tipologia di immagine deve dare che rappresenti la propria azienda, la propria attività, il proprio marchio. Sì, esattamente come in una pubblicità in sostanza. Mi dice una cosa, sì. Allora voi siete stati condannati a risarcirla con 500 euro, perché? Esatto. Cosa dice la sentenza? Semplicemente è un risarcimento non patrimoniale e la sentenza ci dice che dobbiamo risarcirla in quanto non abbiamo ammesso la hostess alla selezione. Ah, ok. Quindi, in sostanza, voi avreste dovuto comunque, come intermediario tra la hostess e l'imprenditore, far vedere la foto all'imprenditore. Questa è la sostanza. Esatto. E precedentemente, nel primo grado di giudizio che loro hanno perso, ci hanno chiesto anche ingenti richieste economiche. Per cui diciamo che questo danno non patrimoniale di 500 euro è stato anche abbastanza esiguo. Nella loro prima richiesta hanno chiesto ingente appunto richieste economiche. Ok, e mi dica una cosa, sì? Qualche giornale titola che insomma che adesso in qualche modo sareste costretti non ad assumerla ma ad utilizzarla, diciamo, per i vostri assolutamente servizi. Assolutamente, è una informazione mendace, non siamo assolutamente costretti ad utilizzare le hostess col velo oppure questa hostess per i nostri servizi. La sentenza che è stata pronunciata ci dice solo di risarcire con un danno non patrimoniale di 500 euro e spese di entrambi i gradi compensate. Solamente. Questa è stata la sentenza. Assolutamente non dovremo assumere né richiedere hostess col velo nella nostra agenzia. La ringrazio, grazie Roberta Casetti, imprenditrice, fondatrice di Evolution Events, appunto, che è un'azienda di Imola che è rimasta coinvolta in questa vicenda. Adesso ci occupiamo del terremoto in Friuli. Sono passati 40 anni, 6 maggio del 1976, fu ovviamente un disastro, 990 vittime, 2600 feriti, 75.000 edifici danneggiati e 18.000 letteralmente cancellati. E anche però, a 40 anni di distanza lo possiamo dire, un esempio per la ricostruzione in Italia. Viene citato come il momento nel quale nella sostanza nacque il sistema della protezione civile. Sergio Gervasutti è un collega giornalista ed è stato il primo giornalista del Gazzettino ad arrivare sul posto. Sergio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, la prima cosa che ti chiedo e poi parliamo del perché in Friuli le cose sono andate così bene mentre invece ci troviamo per esempio a dover stanziare ancora fondi fino al 2028 per il terremoto del Belice, però prima voglio un tuo racconto dei momenti nei quali sei arrivato là, di che cosa ti sei trovato di fronte. Naturalmente oggi è una giornata abbastanza pesantina per i ricordi che comporta. E 40 anni sono passati, ma il dolore permane in tutti i friulani, soprattutto perché a distanza di tanto tempo hanno potuto verificare che gli impegni assunti allora rimangono ancora validi, rimangono ancora, come dire, dei paletti per costruire un presente e un futuro abbastanza soddisfacenti. Il popolo friulano ha approvato questo tipo di sacrificio e vi si è adattato prontamente, non c'è stato bisogno di soccorsi statali, di enti pubblici, eccetera, eccetera. L'esempio è stato dato dai friulani in prima persona, i sindaci dei paesetti, voglio dire persino i preti nelle loro chiesette, eccetera. Subito dopo il terremoto hanno adottato una decisione che si è rivelata vincente, non soltanto per il Friuli, che è rimasto un modello da seguire, sperando che non si debba più seguirlo, ma comunque persino i preti, dicevo, dopo le prime scosse, passato il terrore, o quantomeno affrontato il terrore delle conseguenze, bisognava prendere delle decisioni. Che fare? Trasferire la gente che non ha più le case in posti più tranquilli, ricominciare a costruire. C'è stata un'unanimità di intenti, persino i preti, come ripeto, dicevo, hanno stabilito che prima di costruire e aggiustare le chiese si aggiustassero le fabbriche, cioè i posti di lavoro. Cioè, quindi prima i posti di lavoro furono per primi i preti, addirittura l'arcivescovo, se non sbaglio a dirlo. Sì, l'arcivescovo, che era Monsignor Battisti, se ben ricordo, e lui stesso sollecitò questa presa di posizione di tutti i preti, e furono all'unanimità proprio convinti di questo, e ripeto, si è rivelata una scommessa vincente, perché trovato, ripreso il lavoro, naturalmente bisognava rimanere accanto al posto di lavoro, quindi ecco che si è evitato una gran parte dell'evacuazione, del trasferimento dei colpiti, e quindi la popolazione è rimasta lì, e così è continuato, insomma, fino a quando nel giro di 10 anni praticamente il Friuli ha cambiato volto. Certo, e probabilmente in questo ha contato anche il terremoto del Belice, del quale abbiamo parlato, avvenne solamente 8 anni prima, e quindi probabilmente anche gli errori fatti in quegli 8 anni hanno contato nel come si è affrontata l'emergenza, no? Sì, nel senso che forse, adesso non voglio mica parlare male di qualcuno, ma non so, forse nel Belice mancava quello spirito di iniziativa che invece era la caratteristica del popolo friulano. Cioè, il fatto di chiedere prima il posto di lavoro e poi la casa e la chiesa è indicativo di una mentalità, di un modo di essere, di vivere. Cioè, qui il lavoro, ancora oggi per la verità, è considerato un bene al quale non si può e non si deve rinunciare. Bisogna anzi coltivarlo e crescere la possibilità di dare lavoro soprattutto ai giovani. Oggi Friuli è, si può ben dire, una regione abbastanza da imitare, ecco. Sì. Sergio, rappresentò anche uno spartiacque in questo senso, come dire, dal punto di vista proprio del cambiamento stesso della regione, dello sviluppo della regione. Ecco, direi che il terremoto ha costituito, un perno, una svolta, uno spartiacque, diciamo, come vogliamo, uno spartiacque tra il vecchio Friuli e il nuovo Friuli. Cioè, il vecchio Friuli era un territorio prevalentemente agricolo, con le conseguenze di miseria abbastanza diffusa, diciamo. Dopo il terremoto sono arrivati, diciamolo pure, insomma, sono arrivati anche dei soldi delle imprese, delle aziende che intendevano aprire nuove iniziative, avviare nuove iniziative. E questo ha favorito la ripresa, insomma. Dopodiché è questione dell'uomo, della persona. Cioè, in Friuli, ripeto, il lavoro è l'obiettivo principale per avere una vita tranquilla e serena. Sergio, come dicevamo, tu sei stato il primo giornalista del Gazzettino e quindi del giornale locale, per così dire, ad arrivare là. Mi dai, prima di chiudere, prima di salutarci, un flash di un tuo ricordo? Cos'è la cosa che più nitidamente ricordi di quelle ore di 40 anni fa? Guarda, dunque, io per combinazione mi trovavo proprio a Udine in quel periodo. Io facevo l'inviato di Venezia e giravo un po'. Quella volta, per combinazione, mi trovai proprio a Udine. Alle 9 di sera stavo cenando quando i muri incominciarono a traballare. Si incominciò a parlare, a fare delle ipotesi. Cosa sono? Carri armati che passano? Sono le frecce tricolori che si allenano? Nessuno sapeva, ovviamente, nessuno poteva sapere che si trattava di un terremoto. Un'ora circa dopo, una radio locale, diffuse questa ipotesi che ci fosse appunto un terremoto. Dopodiché, ancora mezz'ora di tempo, e si incominciò a vedere i primi disastri. Io quindi partii immediatamente da Udine e mi diressi verso quello che poi si sarebbe rivelato il cuore del terremoto, cioè Velzone, Altegna, Gemona, quel triangolo lì all'inizio delle Alpi Carniche. E quando arrivai, ad un certo momento dovetti fermarmi all'ingresso di Gemona, dove esisteva un cotonificio, il quale impegnava, dava lavoro a quasi tutto il paese. E quando io arrivai a quel punto, trovai una barriera di fuoco, oltre la quale non si poteva andare, perché ovviamente stava ancora crollando tutto, fumo, qualcosa di spaventoso. La gente correva per le strade senza avere un punto di riferimento, trovavano un pompiere, un militare, un carabiniere e si fermava a chiedere cosa succedeva e nessuno sapeva dire esattamente cosa succedesse. Io ebbi il malaugurato dovere di fermarmi ovviamente tutta la notte e quindi da lì cominciò il tuo racconto. Io ti ringrazio, grazie a Sergio Gervasutti, appunto, che è un giornalista, scrittore, ex appunto giornalista del Gazzettino. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire come sempre cosa succede sui mercati e nella seconda parte della trasmissione su una vicenda e ci sposteremo a Torino, dove una coppia di ragazzi omosessuali ha subito di fatto un anno di stalking all'interno di un condominio, non solo da un condomino, ma a quanto pare nel silenzio di tutti gli altri, e adesso stanno andando a processo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli, a partire dalle parole del Papa che oggi ha ricevuto il premio Carlo Magno. I progetti dei padri fondatori europei non sono superati, costruire ponti e abbattere muri, dice il Papa, sogno un'Europa madre accogliente, migrare non è un delitto. La procura di Trani indaga su Deutsche Bank per la vendita di titoli di Stato italiani, 7 miliardi nei primi 6 mesi del 2011. Dall'Associazione Nazionale Magistrati censura a Morosini, il componente del CSM che avrebbe attaccato Renzi, inopportuno e ingiustificato, dicono dal sindacato dei magistrati. Elezioni in Gran Bretagna, sconfitta dei laburisti in Scozia, mentre i primi dati da Londra danno avanti il laburista Sadiq Khan. Parte il Giro d'Italia, parte dall'Olanda, già con la prima polemica, è quella sullo spot della Rai che sembra un attacco al motociclismo. La borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Effetto giorno. Questa è una storia di discriminazione che arriva da Torino, dal quartiere San Donato. È una storia che racconta di un uomo a processo per stalking nei confronti di una coppia di ragazzi omosessuali che erano andati a vivere appunto in questo condominio, ma è anche la storia di delle persone che vivono in questo condominio che non hanno fatto nulla per impedire tutto questo. L'avvocato della coppia è con noi, Anna Ronfani. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Frasi come scendi giù che ti spacco la faccia, se ne devono andare con le buone e con le cattive, addirittura un tentativo di rapina, mi pare di aver capito. Sì, e anche questo contestato in un procedimento a parte rispetto a quello che si sta trattando di fronte al Tribunale Ordinario di Torino, perché le persone sospettate di aver commesso questo reato sono l'altro, cioè la rapina e l'aggressione, sono minorenni e quindi c'è un fascicolo aperto di fronte al Tribunale per i minori e la persona individuata in quanto riconosciuta dai due ragazzi aggrediti è la figlia di uno dei condomini. Che è il condomino che di fatto per un anno intero, dal momento nel quale questi si sono trasferiti in questo condominio, ha iniziato, per essere delicati possiamo dire, a dargli fastidio. Purtroppo sì, e certamente alimentando con comportamenti che sono stati specificamente individuati, che riguardano questa specifica persona e che sono descritti nel capo d'imputazione, un clima che però è stato collettivamente molto ostile nei confronti di questo ragazzi. Ecco, è questo punto che ci interessava, avvocato Ronfani, perché per essere chiari, il caso della persona o un po' fuori di testa o presunta tale, diciamo così, che disturba delle persone per il loro orientamento sessuale è grave, ma accade. Il punto qua è che in un condominio di 5 piani il silenzio da parte di tutti gli altri. C'è stato sicuramente un silenzio nel momento in cui i fatti si verificavano, che però non è stato connotato solo ed esclusivamente da silenzio, ma è stato connotato anche da presenza di queste persone in momenti particolarmente critici, nei quali queste persone non hanno non solo mai manifestato nessunissima forma di presa di distanza dalle azioni del condomino più aggressivo e più attivo, ma anzi, a quanto si è potuto anche durante il dibattimento percepire dalla stessa testimonianza di queste persone, hanno assunto un atteggiamento che ha sostanzialmente nutrito, confermato e rafforzato l'aggressione del soggetto individuato. L'avvocato della difesa dice: non è una questione di omofobia, il condominio è litigioso, anche il mio assistito ha subito atti vandalici, così racconta la stampa. Ma questo non ha intanto non l'ha assolutamente dimostrato nel dibattimento, si è limitato a dichiararlo, non ha dato nessuna prova di atti che avesse lui subito di questo tipo. La litigiosità è una litigiosità che, come può accadere in condomini, ahimè, connotati da questa caratteristica relazionale, è anche presente. Ah sì, guardi, oggi abbiamo pescato una storia dalla Pubblica del secolo XIX di un amministratore di condominio assai strilevante che ha tirato fuori la pistola durante la riunione addirittura, quindi sì, capisco, insomma, i condomini sono litigiosi di base. Sicuramente eccessivo. È sicuro che ci fossero, anche prima che arrivassero dei miei assistiti, delle criticità che, tanto per dirne una, erano per esempio una pesante morosità da parte del condomino imputato che da anni sistematicamente ometteva il pagamento delle spese di condominio, chiedendo la solidarietà ai condomini, cioè facendosi che loro pagassero per lui. E questa è una delle cose che i miei assistiti si sono permessi al loro arrivo di obiettare potesse non essere accettabile. Di lì in avanti, ma specialmente dal momento in cui tutti hanno colto che non erano amici, fratelli, cugini, compagni, ma erano qualcosa di più, dal loro punto di vista evidentemente inaccettabile, è partita tutta una serie di atti molesti, intimidatori, minacciosissimi e aggressivi che hanno avuto una pesantissima connotazione omofoba e che è ancora lì adesso, perché l'ascensore con le scritte incise, le cose che sono state anche ancora attualmente documentate e fotografate sono rimaste nonostante anche tentativi di farle scomparire, persino a spese e per azione dei miei assistiti direttamente, ricomparivano puntualmente il mattino dopo. La ringrazio. Grazie avvocato Anna Ronfani per essere stata con noi. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.